Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quando riapriamo gli occhi, ci ritroviamo dall'altra parte della sala. La gente intorno a noi continua a ballare e il livello alcolico è perennemente in ascesa. Io lo guardo e senza imbarazzo gli chiedo: vuoi venire a casa mia? Mi chiamo Chiara, ho 27 anni, da quasi un anno vivo ad Anversa con il mio ragazzo. Lavoro in un caffè e nel contempo sto mettendo in atto alcuni progetti fotografici con l'ufficio stranieri. La storia di Chiara e del suo fidanzato che si incontrano una sera e bam, nasce tutto. Dopo un anno sono ad Anversa, come a scappare da uno strano destino che qui in Italia non li vuole insieme. Una sorta di Romeo e Giulietta contemporanea. Oggi parliamo di vite che assomigliano ai romanzi. 349-238-6666. Se la vostra vita fosse un romanzo, che romanzo sarebbe? Ovviamente dovete averle letto per avere un'idea, o altrimenti potete averne solo sentito parlare. Però una storia simile, una storia che ricordi la storia della vostra vita. Anche voi siete qui, @radio24.it, o altrimenti attraverso il profilo Twitter. Voi siete qui R24 o Facebook. Voi siete qui Radio24. Ho ripetuto sempre le stesse cose, ma d'altra parte sono quelli i contatti. Gustavo sarebbe scritto a quattro mani da Pennache Baricco, un po' visionario e un po' crudo sulle lucubrazioni mentali dell'uomo medio e sulla pochezza umana dilagante. Finale a effetto. Emanuele dice: sarebbe Febbre a 90 di Nick Hornby. E poi Ilaria: la mia vita se fosse un romanzo sarebbe I Tre Moschettieri. Gabriele: se fosse un romanzo invece non sarebbe un romanzo, sarebbe una raccolta di racconti, di molti racconti di generi diversi, forse Carver, Chekhov, Edgar Allan Poe. Insomma, siamo belli su però. 349-238-6666. Si parla di vite che in qualche modo ricordano un romanzo o una storia o un dramma o un film. Quale sarebbe la vostra? 349-238-6666. Quella notte io volevo solo ballare. Volevo ballare in mezzo a quel mucchio di gente sudaticcia, sentire i corpi degli altri sul mio e non pensare a nient'altro se non al ritmo che mi pulsava dentro il petto e mi faceva girare la testa. Ero triste, ero disperata. Nel mucchio e nella confusione delle luci vedo un ragazzo che mi guarda, immobile, fermo in mezzo al resto della gente. Mi fissa, cominciamo a guardarci a vicenda e ci avviciniamo. In un attimo i nostri corpi sono vicini. Lui avvicina le sue labbra al mio collo. Posso sentire il suo respiro. Non una parola. Lui mi prende una mano. Io gli accarezzo il viso e poi le spalle. Continua a fissarmi. Improvvisamente mi bacia. Tutto intorno a noi scompare. Mi sbatte contro il muro e preme il suo corpo sul mio. La sua lingua brama ogni spazio di pelle scoperto, labbra, zigomi, collo, spalle. Le nostre mani, nervose ed eccitate, scivolano dappertutto. La serata era stata abbastanza noiosa fino a quel punto. Io ero in giro con un paio di amici, poi avevamo deciso di andare a ballare, ma siamo arrivati molto tardi. Ero quasi convinta da tornare a casa, non mi stavo divertendo particolarmente. Poi improvvisamente io ho incrociato lo sguardo di questo ragazzo. Ci siamo avvicinati come se fossimo quasi due animali, perché ci siamo solo scambiati degli sguardi e immediatamente ci siamo avvicinati e ci siamo baciati. Quando riapriamo gli occhi ci ritroviamo dall'altra parte della sala. La gente intorno a noi continua a ballare e il livello alcolico è perennemente in ascesa. Io lo guardo e senza imbarazzo gli chiedo: vuoi venire a casa mia? Ci volevano almeno 30 minuti a piedi per raggiungere la mia casa. I nostri piedi erano leggeri. Parliamo, ci osserviamo sotto la luce dei lampioni. Non sentiamo né il freddo né la fatica delle 5 del mattino. Lui ha uno splendido sorriso che si interrompe sempre a metà e mani grandi, affusolate, nervose. Finalmente arriviamo a casa. Ci sfiliamo i vestiti a vicenda, ci stringiamo fino a farci mancare il respiro. Bacio ogni parte del suo corpo. Lui mi prende tutta tra le mani. Forse lui sente la mia disperazione. Non mi importa di nient'altro in quel momento. O almeno, provo a fare in modo che lo sia così. Dormiamo tutta la notte avvinghiati l'una all'altra, con le gambe e le braccia umide che si stringono. Nella stanza c'è odore di alcol, sudore e saliva, e un po' di tristezza, e un po' di speranza. Ci siamo rivisti dopo 3 giorni, durante i quali io non ho fatto altro che pensare a lui. Abbiamo passato intere settimane insieme, con le persiane della mia stanza perennemente chiuse. Ci dimenticavamo di tutto, anche di mangiare o di lavarci. Io sentivo che mi stavo innamorando, e per questo l'ho ferito. prima che lui ferisse me. Avevo paura che, conoscendomi, lui mi avrebbe lasciata. E così ho fatto io la prima mossa. Violenta, egoista. Invece lui mi ha ascoltata, compresa e accettata. Io per la prima volta mi sono aperta completamente e ho tirato fuori tutto. Il rigurgito dei miei ricordi più dolorosi. Ho cominciato anch'io a comprendere me stessa e a perdonarmi, anche se non c'era nulla a perdonare. Coraggiosi, stupidi, innamorati, abbiamo scelto di rimanere l'una con l'altro. Dopo 2 mesi siamo andati a vivere insieme. Prendiamo una stanza in un appartamento con altri 2 ragazzi. Io, che mi ero appena laureata, per pagare l'affitto faccio la babysitter e mi occupo di lui. Che c'è di male, in fondo, nel prendersi cura di qualcuno? Lui scrive la sua tesi, suona, mi adora. Viviamo settimane meravigliose, spensierate. Dopo 3 mesi in quella casa, si laurea anche lui. E partiamo. Dopo qualche mese che stavamo insieme, c'eravamo tutti e 2 laureati da poco e siccome lui aveva trovato un buon lavoro all'estero, abbiamo deciso di partire insieme. Adesso da quasi un anno viviamo ad Anversa, abbiamo trovato un appartamento in centro città. Anversa è una città che non costa molto, quindi per i giovani non è così difficile viverla davvero. Lui qui ha trovato un buon lavoro, io mi arrangio con occupazioni saltuarie. Entrambi cerchiamo di capire cosa fare delle nostre vite, come la maggior parte delle persone della nostra età. Sentiamo di doverci piegare alle oscillazioni del mercato, ma continuiamo a coltivare le nostre passioni e a crederci. Abbiamo un piede incatenato e l'altro che balla uno swing furioso. Da quella notte è passato poco più di un anno e nonostante le ferite, l'irragionevolezza delle scelte, l'amore giovane e le molte lacrime, io sono qui. Noi siamo qui. Heart and soul, baby, there is no goal. Turn the lights on bright, you're a rock and roll star. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me on TV. At the TV station. Prima della scoperta dell'Australia, gli abitanti del vecchio mondo erano convinti che tutti i cigni fossero bianchi. Ed era una convinzione inconfutabile, perché era confermata dall'evidenza, cioè nel vecchio mondo non esistevano cigni neri. Poi si scoprì l'Australia e si conobbe con grande sorpresa lui, il cigno nero. Questa storia dà il titolo a un bellissimo libro di quelli che nelle librerie devi chiedere al libraio, perché può stare indifferentemente in saggistica, filosofia, comunicazione, economia. L'autore si chiama Nassim Nicola Taleb, è libanese, insegna scienze dell'incertezza negli Stati Uniti, roba che è più trasversale di così si muore. Il libro si intitola appunto Il cigno nero. Il cigno nero rappresenta un evento isolato che non rientra nel campo delle normali aspettative e che ha un impatto enorme su quello che verrà dopo. Quante volte ci è capitato di aspettarci qualcosa, di pianificare, di programmare un evento, un risultato, salvo poi trovarci sorpresi di fronte a delle conseguenze che non avevamo né previsto né calcolato. Se ci fermiamo a riflettere per un attimo, gli episodi veramente importanti della nostra vita quasi sempre non li avevamo previsti, nel bene e nel male. E come Fleming ha trovato la penicillina comprando per errore un melone andato male al mercato, così, da una serata disperata, Chiara ha trovato la speranza. E quello che mi piace della storia di Chiara è proprio questo. Se non so se avete fatto mai dei corsi o avete letto dei manuali di scrittura creativa, comunque lì quelle che sono chiamate le circostanze date sono la scintilla che innesca una storia. Quella di oggi sono una ragazza disperata che non vuole saperne di nulla, che vuole solo ballare fino allo sfinimento per non sentire più nulla. Ma l'improbabile, il cigno nero, governa la nostra vita. Non si va quasi mai dove pensiamo di andare, che ci piaccia oppure no. E Chiara, quella sera, sudata di alcol, sudore e ballo, incontra il principe azzurro, quello vero. Esattamente come gli innamorati più famosi di tutti, Romeo e Giulietta. La storia d'amore tra Romeo e Giulietta la conosciamo tutti, ma le circostanze date spesso le si dimenticano. Romeo vuole andare alla festa dei Capuleti solo perché a quella festa ci andrà Rosalina. Non ha nessuna intenzione di incontrare Giulietta, non sa nemmeno chi sia Giulietta, ne ignora l'esistenza. Come i nostri antenati europei ignoravano l'esistenza del cigno nero. E Giulietta ci va perché suo padre e sua madre vogliono presentarle Paride, un gentiluomo che chiede di sposarla. Entrambi hanno aspettative e progetti per la serata ben definiti e niente sembra smuoverli dai loro propositi. Allo stesso modo, Chiara ci racconta di una serata premeditatamente orientata verso il disimpegno e lo scacciare lontano ogni forma di pensiero, alla bevo per dimenticare o ballo per dimenticare. E anche il suo principe azzurro è uscito quella sera con un intento preciso: colpire e affondare senza preoccupazioni. Tutto cerca fuorché una storia d'amore. Ma il cigno nero manda a quel paese le aspettative e i progetti che tutte e quattro, Romeo e Giulietta, Chiara e il suo fidanzato, si sono fatti. Romeo e tutta la storia del teatro con lui dimenticano Rosalina in un secondo, per amare lui con tutto se stesso Giulietta. Giulietta fa lo stesso e Chiara e il suo ragazzo anche loro. Se, mentre erano in fila per entrare alla festa, Mercuzio avesse detto a Romeo: tu, Romeo, stasera ti innamorerai di Giulietta, te la sposerai in segreto, nel giro di qualche settimana. Poi a me mi farà fuori un suo parente mentre cerco di mettere pace, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, se Mercuzio gli avesse detto tutta questa, Romeo lo avrebbe guardato dicendo magari di smettere con le droghe. Io, Mercuzio, voglio solo Rosalina, gli avrebbe detto. Non ho occhi che per Rosalina. Non ci sarà mai una Giulietta nel mio cuore. Ecco, allo stesso modo, se a Chiara, quella sera, la sua amica del cuore avesse detto: Chiara, tu stasera incontrerai un uomo che ti farà bollire il sangue, che ti farà dimenticare tutto. Tra un mese cercherai casa con lui, ti prenderai cura di lui, lo aspetterai mentre finisce l'università e tra un anno vivrete in Belgio. Ecco, lei ci avrebbe fatto una risata e forse non sarebbe nemmeno uscita. È meglio così. Noi ci sforziamo senza sosta di pianificare il futuro, di prevederlo, di sapere da che parte deve andare. Non ci accorgiamo di quanto le nostre vite vengano modificate in maniera decisiva dall'ignoto. Let's dance, little stranger. Show me secret sins. Love can be like bondage. Seduce me. Gabriele scrive: se la mia vita fosse un romanzo, o meglio uno spettacolo teatrale, sarebbe Romeo e Giulietta. 2 febbraio 2012 ci presentano un aperitivo combinato. Da quella sera ci siamo visti tutti i giorni e poi 8 giorni fa, il 17 gennaio, è nato Giovanni e Paola e io siamo ancora qui insieme e felici. Gabriele, insomma, cerca di strappare la palma di storia simile a quella di Romeo e Giulietta. Gabriele, ma mi spiace, ma ho deciso che nella puntata di oggi la storia più simile ai due innamorati che lottano contro l'avversità, purtroppo, è quella di Chiara e il suo fidanzato. Pronto, Chiara? Pronto. Ciao, ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Sei ad Anversa in questo momento? Sì, sono a casa. Ma è il clima di Anversa che mette questa flemma, diciamo, ai suoi abitanti, o tu sei semplicemente una persona pacata, Chiara? Io sono molto pacata, però sì, anche molto... È abbastanza tranquillo, soprattutto perché fa freddissimo, c'è un po' di neve, quindi la gente non esce molto. Ma scusa, esatto, che clima c'è ad Anversa adesso? C'è neve, c'è umidità, ci sarà umidità, no? È Belgio, vicino, sì, all'Olanda. Sì. Fa molto freddo adesso. Gennaio e febbraio sono i mesi più freddi, se sei fortunato ci sono 2 gradi, 3 gradi. Facciamo un passo indietro, perché come siete arrivati ad Anversa, Chiara? Ma noi siamo partiti... Quando Lorenzo ha trovato un lavoro in Olanda, a sud dell'Olanda, abbiamo vissuto 6 mesi lì e poi, siccome la città era molto molto piccola, abbiamo deciso di trasferirci qua, perché era la città più grande nei paraggi. Per grande quanto intendiamo? Più o meno quanti abitanti? Sono 500.000 di abitanti. Quindi è il posto che uno si immagina quanto immagina quelle parti d'Europa, biciclette, centri cittadini molto accoglienti, gran freddo. Sì. Sì, così. E tu che cosa fai lì, Chiara, adesso? Io adesso lavoro in un caffè, servo al bar e faccio le torte e poi adesso sto lavorando a dei progetti fotografici con l'ufficio stranieri, perché avendo fatto dei corsi di integrazione sociale ho conosciuto molti ragazzi, soprattutto extraeuropei. Scusami, cosa sono i corsi di integrazione sociale? Sono dei corsi che la città ti offre, in cui in 5 settimane ti insegnano, diciamo, tutto quello che riguarda il Belgio, come trovare lavoro, le leggi, i tuoi diritti, i tuoi doveri, è utile soprattutto alle persone che arrivano come rifugiati o che sono fuori dall'Europa. Io l'ho fatto perché avevo tempo e mi interessava. Quindi è un posto che consiglieresti Anversa? Sì, assolutamente. Ma a chiunque? O, cioè, tu hai amici a cui hai già detto venite qui, non state più lì? Tutti gli amici che mi sono venuti a trovare si sono sempre trovati bene. E lo consiglio soprattutto ai giovani, a chi finisce l'università. Ma scusami, ma perché ci sono in maniera palpabile delle opportunità oppure perché è un posto in cui si vive bene, il costo della vita è più basso? È più basso il costo della vita? Sì, è più basso. È più basso rispetto allo stipendio medio che uno ha. Comunque sì, è palpabilmente è più basso. Che cosa fa invece Lorenzo, se posso? Lorenzo lavora in una compagnia navale, si occupa di shipping. Shipping, ok, sì. Letteralmente. No, credo che si dica proprio, cioè, uno di quei termini, io insomma l'ho già sentito anche qui, quindi sì. Cioè, export e import attraverso le navi, la dico malissimo, però. Sì, lui è operatore, si occupa, lui fa da tramite tra la sua azienda e i capitani che sono sulle navi. Ho capito. Quindi l'ho un po' costretta questa cosa, no? Del Romeo e Giulietta, che invece che avere contro le famiglie ci hanno contro, che ne so, una nazione, un periodo, un sistema. Però al momento è a buon fine la vostra storia. State bene, siete felici e sentite aver fatto la cosa giusta. Sì, assolutamente abbiamo fatto la cosa giusta, anche perché non siamo poi così lontani. Con un aereo si arriva subito a casa volendo, se si vuole, sì, vedere, certo, la famiglia. Certo, sì, però siete ad Anversa, diciamo. Sì, di fatto non sì. Siete rimasti qui. Di dove siete voi, Chiara? Io sono svizzera e Lorenzo è di Genova, italiano. Quindi vi siete incontrati dove quella sera? A Genova, perché io ho studiato lì, ho vissuto lì per 6 anni. Ok. Ci siamo conosciuti a Genova, sì. Ok, che lingua parli ad Anversa? Io parlo inglese, ma ho iniziato a imparare il fiammingo, che poi è olandese, hanno un accento un po' diverso. Perché lì si parla fiammingo? Sì, è la parte fiamminga, sì. Però l'inglese è sdoganato, mi sembra di capire. Sì, perché siccome c'è astio fra le due parti, francese e fiamminga. Certo, ovviamente ne si fa una questione di principio, allora si parla per forza fiammingo, immagino. Sì. Senti Chiara, ti ringrazio molto per la storia e per questo spaccato di vita vostra. Vi faccio in bocca al lupo e ci sentiamo presto, spero. Saluta Lorenzo. Ciao, grazie mille. Ciao. 349-238-6666. Se la mia vita fosse un romanzo, sarebbe Il compagno di Cesare Pavese, Pietro il Genuano. Voi siete qui. C'è una luce quasi da tramonto nella foto che ci ha mandato Chiara e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui come al solito, e alle sue spalle, la luce intendo. E a giudicare dai palazzi che ci sono dietro di lei, sembrano palazzi del nord Europa, non sembra una città italiana, quindi mi piace immaginarla ad Anversa e alla fine di una giornata autunnale. Ha i capelli biondi sciolti che le coprono una parte del viso, è una bella ragazza, Chiara, e ha, anche se lo sguardo è basso, ha l'aria un po' malinconica, un po' come il tono della sua voce. Romanzo. Sostantivo maschile. Genere moderno di composizione narrativa in prosa, di vario sviluppo e complessità di personaggi e di vicende, caratterizzato dalla posizione più o meno esplicitamente impegnata dello scrittore in un sistema ideologico e morale. Figurato: fatto o avvenimento tanto singolare o insolito da risultare inverosimile, frutto di invenzione o fantasia. Etimo: dal francese antico romance, reso sostantivo. Data: secolo XIV. Secolo XIV. 349-238-6666. Claudio da Verona. Se la mia vita fosse un romanzo, sarebbe Viaggio di un naufrago di Marquez. Marcello: se la mia vita fosse un romanzo, sarebbe La banda dei brocchi di Jonathan Coe. E poi Ce l'ho, mi scrive Abba. No, Marcello. Ce l'ho. Ah, Marcello Abba. Ce l'ho. Io speriamo che me la cavo. Ma cos'era? Io speriamo che me la cavo era quel romanzo fatto di racconti di bambini dell'elementare, giusto? Sì, un po' sgrammaticato. Ci hanno fatto anche un film, mi sa. Ci hanno fatto un film con Fantozzi, con Paolo Villaggio. Fantozzi. Il mio libro, cioè la mia vita sarebbe Tre uomini in barca, per non parlare del cane. di Jerome K. Jerome, tutti gli sforzi per essere seri e organizzati finiscono in una disastrosa comicità. Silvia è ancora qualcuno che vola altissimo, la mia vita sarebbe gli amori difficili di Italo Calvino. Oggi è arrivata una mail, ne arrivano diverse, ogni tanto mi piace prendere una e leggerla, soprattutto se sono belle come queste, sono disincantate e lucide come questa. La persona che l'ha scritta mi ha chiesto di essere anonimo, l'ho pubblicata già sul profilo Facebook e ve la leggo adesso in diretta. Se la mia vita fosse un romanzo, sarebbe un romanzo contemporaneo, di quelli che fanno il botto senza un vero motivo, che le signore il sabato pomeriggio comprano nelle librerie del centro e poi ne parlano alle amiche bevendo il tè. Sì, se la mia vita fosse un romanzo, sarebbe un bestseller di oggi, di quelli che vengono poi mestamente giudicati dal tempo e svaniscono nel nulla. Non voglio dire che la mia vita non mi piaccia, al contrario, ho una carriera professionale sfolgorante, guadagno bene, viaggio molto. Eppure manca qualcosa o qualcuno. Ho sempre paura di incontrare una persona, magari un buon critico, che mi guardi e mi dica: tu hai qualcosa che non funziona. Non intendo dire che andrà sempre così, eh? Magari un giorno la mia vita cambierà e allora sarò pronto a smentirmi, ma adesso, se la mia vita fosse un romanzo, sarebbe uno di quelli con le copertine lucide e rigide che si danno un sacco di arie, di quelli che trovi impilati a decine all'ingresso delle librerie. La foto frontale la sceglierebbe la casa editrice e non l'autore. Magari una cosa tipo il volto misterioso di una ragazza che ti fissa negli occhi appena lo prendi in mano. Sarebbe un romanzo di cui si parla nelle trasmissioni televisive, quelle cult, quelle che guardano in pochi, spesso di sinistra, progressisti, che non fanno in tempo a guardare una cosa e subito la scrivono su Twitter con l'hashtag «grande romanzo». La presentatrice direbbe che questo romanzo è lo specchio di un'epoca, la nostra, e dovrebbe essere assolutamente letto. Se fosse un romanzo, la mia vita, sarebbe scritto con uno stile ammiccante, un po' ricercato, come se sotto sotto ci fosse chissà quale oscura e sofferente verità, come un completo scuro di Armani indossato sopra una t-shirt invece di una camicia. Le frasi sarebbero brevi e piene di punteggiature. I capitoli non sarebbero più lunghi di due pagine e ogni tanto, tra un capoverso e l'altro, ci sarebbero degli spazi vuoti, come a indicare delle pause piene di chissà che. Sarebbe un libro che vuoi avere sempre sul comodino, fino a che non hai smesso di leggerlo. E poi lo infili nella libreria e te ne dimentichi. Non ci sarebbero sottolineature e il dorso sarebbe intatto, perché non è servito troppo tempo per leggerlo. Se la mia vita fosse un romanzo, temo che la recensione riporterebbe una frase tipo «una storia fresca e piena d'aria», mentre le persone, parlandone, direbbero che è molto scorrevole. Non vorrei che la mia vita fosse un romanzo così, e ora che l'ho capito, la prima cosa che farò sarà smettere di leggerli, romanzi così. Giuseppe, ho lasciato Rosalina per sposare Giulietta, viviamo nel mio castello e dopo 14 anni ce l'ho fatta, ma che fatica, ti amo Giulietta. Sono le 16.42, venerdì, finisce anche questa puntata. Qualsiasi cosa facciate questo fine settimana, passatelo bene e possibilmente in buona compagnia. Io devo andare a Riccione a fare un... non sono mai stato a Riccione in vita mia, mai. Devo andare a Riccione a fare un lavoro. Che detto così sembro tipo un DJ di Radio DJ. E questo fine settimana suono a Riccione al... non so dove. E invece non è nulla di tutto questo, ovviamente, vado a fare altro. Grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, a Margherita Ina e a Mauro Pescio. La storia di oggi era di Chiara, in bocca al lupo a lei e a Lorenzo, la storia era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Aurora, vengo da Bologna, la storia di lunedì è la mia, parla del mondo come lo vorrei. Questa è la mia storia, io sono qui.